stabile sei tu per me. Vittima e carnefice, non puoi piangere, e lacrime d'orgoglio ormai sei tu per me, mai più. Ferita e ormai sei tu.